Possiamo dare inizio alle comunicazioni. Abbiamo tra noi tre partecipanti, tre convegnisti. Cominciamo con la comunicazione di Marco Vannini, studioso di Eckhart, chiamato in causa più volte da Caracciolo nel corso, professor Caracciolo nel corso della sua relazione. Il tema su cui ci intratterrà è Predica Verbum, la generazione della parola dal silenzio in Meister Eckhart. Dunque, io in realtà avrei preparato una comunicazione che non può stare nel periodo che giustamente mi è stato assegnato, quindi faccio una sorta di sintesi e spero che qualche cosa si comprenda, rimandando eventualmente al testo scritto. Agli atti, uscirà un volume di atti. Beh, il mio breve intervento trae lo spunto da un sermone di Maestro Eckhart che si chiama Predica Verbum. Prende lo spunto, come al solito, da un passo biblico, da un passo di San Paolo, e molto significativamente Eckhart traduce Predica Verbum in vario modo. Pronuncia la parola, esprime la parola, ma poi anche produci, genera la parola. Questa generazione della parola dal silenzio, come si capisce dal contesto, come è esplicitamente detto, è il tema appunto del mio intervento. La generazione della parola appunto avviene nel silenzio e a partire dal silenzio. E silenzio significa per Eckhart il distacco da tutta la temporalità, tutte le creature, tutte le immagini. Immagini, il suo linguaggio, sono le rappresentazioni, i contenuti, i pensieri in generale. Quindi Maestro Eckhart sta qui insegnando niente di meno che una rimozione totale del sapere, tra virgolette, dell'uomo. Sapere che lui coglie bene nella sua dipendenza spazio-temporale, cioè nel suo condizionamento, nella sua non libertà, nella sua non assolutezza, nella sua irrilevanza. Tale sapere, appunto sempre tra virgolette, legato al tempo e alle creature, si esprime sempre attraverso il riferimento al mondano, allo storico, al temporale. Ciò che va rimosso, ciò di fronte al quale l'anima deve essere in profondo silenzio. Anzi, dice in questo sermone, di fronte ad esso deve dormire. Questo, ripeto, non ho molto tempo di parlare, ma questo è uno dei grossi temi cartiani, perché evidentemente il sociale, lo storico, qui viene scartato via ad un colpo, e con esso anche le rappresentazioni religiose, anche le rappresentazioni biblico-cristiane, non c'è dubbio. Quindi le storie della salvezza, gli interventi di Dio nella storia, eccetera. Tutto questo repertorio è messo nel conto, cartianamente, dei perché, che giustificano questo o quello, e che sono tutti da rimuovere come irrilevanti o, peggio, falsi. Infatti, per Eckhart, come forse molti di voi sanno, questo sapere non è soltanto determinato psicologicamente, culturalmente, socialmente, eccetera. Non è soltanto legato a un fine personale dipendente da un perché, ma in quanto si pone come assoluto, vero, dotato di autorità, rappresenta anche una bestemmia. E la bestemmia sta in quella insincerità profonda che tralascia di guardare in fondo all'io, che tralascia di cercare le sottili ragioni della sua affermatività, della sua volontà di essere e di potere. ragioni che passano anche nel contenuto religioso. Non ho tempo qui di accennare alle affinità nicciane, che è un tema che mi è un po' caro, e quindi passo rapidamente a qualcosa che forse è più rilevante. Allora, il silenzio per Eckhart, il silenzio di cui qui ci occupiamo, non è soltanto un'assenza di parole, ma neanche persone. Non è soltanto la fine dello strepito dei contenuti, di questa infernale catena delle chiacchiere, e dunque la fine dell'io stesso, che è privo di contenuti su cui appoggiarsi e quindi non può più stare in piedi. Inteso così, non è ancora quello che Eckhart vuole dire, perché silenzio per lui è proprio il fondo dell'anima, che è uno sprofondarsi infinito. Non il silenzio è in quel fondo, ma è quel fondo, nel senso cioè che non si tratta qui di una condizione di assenza, quasi di letargo o di sospensione dell'attività dell'intelligenza, ma al contrario, della sua più intensa vita. Fondo, come tutte le altre immagini simili che usa Eckhart e anche una letteratura a lui imparentata, indica il distacco dal fine e dalla causalità, l'uscita dal condizionamento e da quel flusso di contenuti, di immagini, in cui l'io si pone. Mentre la vita diversamente condotta, la vita comune, diremmo noi, appare povera e dolorosa, lontana dall'essere, fondo, la parola ha un senso, allude a un grado più profondo di realtà, che si coglie sotto, nel senso del fondamento, sotto lo scorrere senza senso dei contenuti. Nel fondo i contenuti rimangono poi quelli consueti e quotidiani, nel senso che non c'è nessuna eccezionalità di ordine psicologico, ma sono, per così dire, sospesi, distaccati dallo spazio e dal tempo, isolati dalla catena delle cause e dei perché. E allora lì, sub specie eternitatis, divengono materia spirituale. Scusate. Spirito, infatti, è il modo con cui questa letteratura chiama la vita nel e del distacco, quando è morto l'io e la volontà personale, in una dimensione tutta nuova ed estatica, di pace e di gioia, e insieme con un profondo senso di realtà, quale mai si è sperimentata. Vorrei brevissimamente aggiungere che una delle caratteristiche più forti che si colgono nelle pagine di Eckhart è l'insistenza su questa profonda gioia. Allora, il silenzio è il distacco, e per contro il distacco è il silenzio, cioè non una condizione estrinseca, ma il modo stesso di essere dell'intelletto, distinto dall'anima. E in questo senso lo scolastico Eckhart trova abbondanti motivi di conforto nel celebre passo del De Anima aristotelico, ovvero del terzo libro De Anima, paragrafo 430, dove l'intelletto, come tutti sanno, è staccato e divino, non dipendente dai legami dell'io, dal determinismo a cui la psiche è sottomessa, e perciò stesso superiore all'identico e al diverso, contemplazione pura, vita quasi divina. Perché in questo atto di contemplazione siamo simili a Dio, e Eckhart molto spesso aggiunge, anzi tutt'uno con lui. È in questo atto di gioia infinita, perché di libertà, che consiste, per così dire, è in questo atto che consiste il fondo dell'anima, ed è in questo stesso atto che il verbum, la parola, si genera. Perciò la generazione della parola, la parola, ripeto, nel senso di logos, di verbo, ovvero, è immediatamente presente nel silenzio, immediatamente presente in questo silenzio. Infatti non si tratta di due atti diversi, cioè, come dire, quello negativo purificatorio e poi quello positivo generante, ma casomai di due aspetti dello stesso atto, che è amore e distacco insieme. È esso, quest'atto, che ha sciolto i legami, un'immagine molto cara al buddismo, per cui di qui si potrebbe parlare dei eventuali rapporti di Eckhart e buddismo, cioè, ma il tempo che mi dai. Allora, è esso che ha sciolto i legami, e i legami sono il denaro, l'affermazione di sé, il potere, tutte cose molto serie e concrete. È esso, è questo atto che mostra la nullità di ogni contenuto. Però questa forza, diciamo così, negativa, in realtà non è altro che la virtù aristocratica dello Edelmensch, dell'uomo nobile, che non si accontenta dell'utile e vuole la giustizia. Non posso soffermarmi qui su questo tema fondamentale in Eckhart, della giustizia. Dio è la giustizia e l'uomo giusto è la giustizia stessa, e perciò in questo senso tutt'uno. Ancora qualche cosa, vorrei che si comprendesse fino in fondo il rilievo filosofico e teologico proprio di questo predica verbum, inteso come generazione della parola, che è la cosa forse a prima vista più sconvolgente, cioè non accoglimento della parola, ascolto della parola o conoscenza di una parola già data e sussistente, ma proprio di generazione della parola. Si tratta di generare una parola che altrimenti non è data e per noi non sussiste. E questo, ripeto, è l'aspetto forse più rilevante, non solo di questo sermone. E lo si comprende, credo, attraverso appunto la riflessione che potrebbe fare, svolgere sul rapporto divino-umano e sul fondamentale concetto di determinismo e di condizionamento che tanto spesso dalle pagine di Eckhart si evince. Anche partendo dal presupposto di un divino che esiste prima e fuori del mondo, come tutti noi siamo partiti in effetti storicamente, la riflessione ci mostra che esso nel mondo diventa sempre intramondano, proprio se vuole essere reale, e dunque diventa così storico, finito, umano. Qui bisogna però evitare di far scattare la trappola linguistica concettuale costituita dalle coppie di termini divino, umano, soprannaturale, naturale, che a una prima vista sembrano antitetici e reciprocamente escludentisi. In realtà un'analisi linguistica e filosofica insieme, perché qui le due cose sono profondamente unite, più attenta mostra che non lo sono affatto, così separati e così escludentisi reciprocamente, se non in un uso ingenuo, che a volte diventa però anche rozzo e terroristico. Proprio il mondo cristiano, direi dalle sue origini fino a Hegel, ha reso esperti della ricchezza di significato e della non rigidità di questi due termini e di questi due concetti. Però, anche se umano, storico, finito, naturale, non esclude di per sé divino, assoluto, soprannaturale, resta il fatto che ogni divino nel mondo passa necessariamente nelle categorie umane, nel finito e nel determinato. E quando l'uomo cerca oggettivisticamente il divino, e lo cerca cioè come un altro precedente, esistente al di fuori, trova sempre l'essere così la finitezza, il condizionamento, qualcosa che è in realtà sempre, necessariamente, dall'uomo e dell'uomo. Si potrebbero fare delle belle citazioni cartiane che hanno un tono, come dire, al di là precedente, al di là di Feuerbach e di Hegel in questo senso. Allora, credo che qui in questo sermone sulla generazione della parola dal silenzio, generazione della parola, Eckhart voglia dire che Dio non è davvero nel mondo se non in quanto parola, in quanto verbo, in quanto logos, cioè se non in quanto generato dall'umano, ovvero proveniente dal fondo dell'anima. Logos, infatti, è ciò che l'intelletto produce, ma è anche l'intelletto stesso. E in questo duplice senso, Dio nel mondo è solamente logos, perché esso non è un oggetto o un contenuto determinato. Chi fa di Dio un contenuto è trattato da Eckhart in maniera vero, insomma, simile a quello come si tratta i bambini. Dio è quella vita e quella luce che sono nell'intelletto, che l'intelletto è nel momento del suo agire in quanto un intellectus, ovvero nel distacco. E gli dèi come oggetti sono tutti morti. Eckhart lo sapeva bene, molto prima che l'illuminismo o le moderne scienze delle religioni ci sbriciolassero i testi sacri e le rivelazioni. Dio è vivo in quanto spirito, generato non attraverso riferimenti ad altro, che è sempre proiezione di bisogni psicologici, di condizionamenti di vario tipo e come tale rimane sempre qualcosa di assolutamente altro, generato non attraverso il riferimento mitico, ma nel logos, ovvero nella verità, nella virtù, nella giustizia, nell'amore, nel distacco. E così credo che qui si voglia dire che la generazione del verbo, la generazione della parola, non è fissazione di un oggetto, non è determinazione di un contenuto, non è, tra virgolette, conoscenza di Dio. Anzi, tutto questo è il suo contrario. Nulla di tutto ciò che è affermativo sfugge al determinismo. Tutto rientra in quell'utilitarismo in cui anche le religioni, le teologie possono essere potenza dispiegata. Al determinismo sfugge soltanto il negativo, quell'atto di libertà, di fede e di ragione insieme che incessantemente rimuove il positivo e incessantemente si muove al di sopra dei legami con le cose. E quindi, concludo, noi dunque generiamo la parola, nel senso che il divino non è nel mondo se non logos, se non generato dall'uomo. Questa è, per così dire, la sua condizione di verità, che provenga da noi stessi. Perché se non lo si produce dal profondo di noi stessi, ovvero se si è costretti a rimandare a qualcos'altro, si verifica sempre una non verità, una inadeguatio. Infatti, quell'essere altro, quella assolutezza, cui si rimanda come presunto fondamento, appare poi sempre determinata e finita, per quanti sforzi si facciano di ricondurlo al soprannaturale. Anzi, più ci si sforza in questo senso, e più la finitezza appare chiara. Più la si pone come trascendente, e più appare nella sua dipendenza dallo spazio temporale, dallo storico, dal condizionato. Invece si tratta di partire dall'opposto, non dai miti, non dalle pretese conoscenze, ma dalla esperienza concreta, qui e ora, della verità e della giustizia. È da questa esperienza, che è propria dell'uomo razionale in quanto tale, e non in quanto membro eventualmente di una religione, di una chiesa, dal suo senso reale, dal senso reale di questa esperienza, che appare il Logos, che si genera la parola, che si genera lo spirito, anzi che si è spirito. Ringraziamo il professor Vannini soltanto la profonda conoscenza, la sua profonda conoscenza di Eckhart, gli ha permesso nel tempo che aveva a disposizione di farci capire la profondità del pensiero eckhartiano, di darci mille suggerimenti da poter approfondire, congetture, ipotesi, desideri, sospetti.